Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, finalmente insieme andiamo subito a sentire i temi del giorno. In acqua o in palestra, ultimi giorni per rimettersi in forma prima della prova costume. Parole che curano. Impara a scegliere il tuo cuscino ideale. Oggi si cambia. Mini corso per prendere il coraggio. Venerdì, un giorno importante, quasi magico, precede il fine settimana e noi solitamente, ormai abbiamo preso questa buona abitudine, ci occupiamo di forma fisica. Un tema particolarmente sentito in questo periodo, come testimoniano due tra le tante mail che sono arrivate in redazione. Diamo subito la precedenza alla nostra ascoltatrice, a Beatrice, subito dopo sentiremo Mario. Ciao a tutti, sono Beatrice, ho 33 anni. Vi scrivo per avere alcuni consigli su dei problemi che sicuramente coinvolgono tante altre ascoltatrici come me. Con l'arrivo dell'estate i difetti fisici sembrano diventare sempre più un problema. In poche parole, non sono pronta per la classica prova costume, ma anche se manca pochissimo, andrò in ferie ad agosto, ho tanta voglia di recuperare. Cosa posso fare per rimediare un po' la situazione? Lo so che non esistono i miracoli, ma ci vorrei provare. Grazie. Bea. Sono Mario, ho 40 anni e devo dire che amo molto fare sport. Adesso vorrei ingranare la classica marcia in più, insomma, vorrei intensificare la mia preparazione fisica. Lavoro molto, ma non manco mai di ritagliarmi degli spazi per me. Non vorrei sbagliare, quindi chiedo consiglio a voi e al nostro amico del venerdì, il dottor Confalonieri. Quindi, dottore, mi affido a lei. Quale corso devo scegliere in palestra per migliorare il mio fisico? Due problemi. Io, per aiutare i nostri ascoltatori a risolvere il loro problema, ho invitato ben due esperti. Il primo, lo sapete già, è venerdì e quindi in studio qua con me c'è il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese. Dottor Confalonieri, ormai non la vorrei neanche più presentare. Va bene, comunque sono qua, buongiorno, ben ritrovati tutti. E abbiamo in studio con noi anche oggi Silvia Senati, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie. Docente di fitness e acqua fitness alla European Aquatic. Allora, oggi avremo molto da fare, dottor Confalonieri. Allora, infatti noi cominciamo e comincerei con una domanda. Dimagrire nei punti giusti, mi riferisco naturalmente, do la precedenza a Beatrice, poi affronteremo il problema di Mario. Appare una missione impossibile, ma è davvero così? Beh, diciamo che dimagrire non è assolutamente una missione impossibile, e dimagrire attraverso l'esercizio fisico e non soltanto attraverso la dieta è addirittura una missione relativamente facile quando siamo fortemente motivati, come capita di solito in questa stagione con la proteina, la prova caldo, costume. Tutto sommato l'appetito che un po' diminuisce e anche una facilità a diete che sono meno grasse. Mentre dimagrire nei punti giusti è quasi una missione impossibile, nel senso che noi non possiamo selezionare i punti in cui andiamo a dimagrire, perché la distribuzione del nostro tessuto grasso risponde al nostro codice genetico e quindi purtroppo possiamo perdere tessuto grasso su tutto l'organismo, ma non in alcuni punti in particolare. Questo succede sia agli uomini che alle donne. Sì, pur avendo una distribuzione diversa del grasso gli uomini dalle donne, certo. Però succede ad entrambi. Possiamo peraltro, con opportuni accorgimenti, scegliendo le attività più adatte, rimodellarci, diciamo così, se non proprio dimagrire. Bella questa, ecco. Rimodellarci, prendere nuove forme. Cercare attraverso una tonificazione mirata, una muscolazione mirata, l'assunzione di posture diverse che spesso migliorano molto il nostro aspetto indipendentemente dalla distribuzione del tessuto grasso, piacerci di più e piacere di più anche se non abbiamo perso il grasso soltanto in quel punto maledetto. Senta, punto maledetto, ma posture diverse cosa vuol dire? Una pancia in dentro, petto in fuori, ci sentiamo più belli, camminiamo meglio e inganniamo l'occhio altrui? Per esempio, vede? Sì, ci siamo già capiti. Ci siamo già capiti con uno sguardo. Invece, domanda da mille punti. Meglio andare in palestra? Ci iscriviamo in palestra e poi la frequentiamo, naturalmente con una certa regolarità, perché se no abbiamo capito che serve a poco, arricchiamo solo le palestre, oppure frequentare un corso mirato di quelli che ci vengono offerti dalle palestre? Beh, io direi che se l'obiettivo che abbiamo è specifico, preciso, e quindi per esempio dimagrire o tonificarci relativamente a determinati gruppi muscolari, è sicuramente più consigliabile la palestra, perché questa ci consente di fare un lavoro individualizzato, graduale, mirato su quelle che sono le nostre caratteristiche, alternando sia il potenziamento e la tonificazione, sia gli esercizi di cardio fitness più mirati al dimagramento, diciamo così. Peraltro, spesso la motivazione cala rapidamente. Allora, il fatto di poter condividere con qualcuno lo sforzo e quindi iscriverci ad un corso può diventare fondamentale per le persone che hanno una scarsa motivazione, perché a quel punto magari vanno avanti davvero per 2 o 3 mesi a fare l'attività. E inoltre i corsi sono spesso molto più coinvolgenti, molto più divertenti, c'è tutto un aspetto ludico che manca nella libera frequenza di una palestra. Quindi direi, se siete molto motivati e avete obiettivi molto ambiziosi, scegliete la palestra. Se sapete già di essere con una motivazione che tende a vacillare e tutto sommato cercate anche la condivisione e il divertimento, scegliete un corso. Poi sono tanti i corsi, quindi è un po' vaga questa definizione di corso. E infatti noi non saremo vaghi, andremo proprio nel dettaglio insieme a Silvia Senati, che ci aiuterà a capire un po' il corso adatto per noi. Ma intanto a Silvia Senati chiederei, facciamo un po', no, una lettura psicologica anche della scelta del corso piuttosto che della palestra frequentata un po' liberamente. Alle donne meglio i corsi, agli uomini li facciamo ammazzare di fatica in palestra, o lei al suo osservatorio privilegiato vede un po' mescolarsi questi due universi? Ma diciamo che la scelta è ancora abbastanza difficile tra il corso guidato dall'istruttore e l'attività libera, che poi è libera fino a un certo punto, comunque, perché c'è sempre un istruttore che ci segue in palestra. Il scegliere il corso ancora dedicato maggiormente alle donne è più un discorso quasi di pregiudizio, perché l'uomo ancora preferisce l'attività con il grosso carico, l'attività dove può vedere allo specchio il muscolo che si gonfia rapidamente. Sì. Mentre vede ancora questa attività un pochino più blando, comunque con componenti ancora dinamiche, coreografiche, dove si balla a volte, se pensiamo alla stessa aerobica, dedicata alle donne, forse perché magari ha più difficoltà anche a seguirle. I corsi sono per tutti, non è fare step, va bene per un uomo, va bene per una donna, e fare ginnastica a gruppo, di corpo libero, fare ginnastica di body sculpt, queste attività insomma di tonificazione guidata, con nomi a volte abbastanza anche anglosassoni, valgono per tutti. La scelta è una scelta proprio di tempo e di motivazione. Tempo perché il corso comunque in genere ha un orario preciso da seguire, non sempre si è disponibili, non si ha tempo per farlo. La palestra permette di andare quando si vuole. In palestra per oggi si trova di tutto, perché dal corso molto più dinamico, dal corso finalizzato anche a un dimagrimento, come l'aerobica, lo step, quindi un corso di attività prevalentemente di cardio fitness, alle attività più di muscolazione, di tonificazione anche distrettuale. Pensiamo allo stesso GAG, gambe, addominali e glutei. Che è durissimo. Allora, noi entreremo proprio nel dettaglio, ci faremo guidare naturalmente dal dottor Franco Confalonieri, ci accompagnerà corso per corso Silvia Senati, e restate con noi. Quindi non dico che alla fine della nostra puntata correrete in palestra con le idee chiare, ma insomma proveremo ad orientarvi. Una mela al giorno. Parole, quante ne diciamo in un giorno, ma alcune di queste hanno un significato particolare. È quasi un effetto terapeutico, sono le parole che ci fanno stare bene, che ci accarezzano quando ci sentiamo un po' giù di morale, che ci fanno sentire amati, sono proprio dei suoni che arrivano al cuore, come una musica. In realtà arriverebbero al cervello, le ricerche lo hanno dimostrato, lo hanno prima studiato e poi dimostrato. In linea con noi abbiamo la nostra esperta di musicoterapia, la dottoressa Erico Sibillo, che è anche un medico, che ci aiuterà un pochino a capire che cosa hanno scoperto i ricercatori e come fare tesoro delle loro ricerche. Dottoressa Sibillo, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti voi. Lei si trova spesso in compagnia del dottor Franco Confalonieri, che oggi ci tiene a salutarla personalmente, perché vi incontrate spesso al venerdì. Okay. Dottor Confalonieri, sfrutti la sua occasione. Sì, volevo salutarla perché ormai abbiamo fatto tante puntate insieme, ho cominciato a apprezzare la musica in una versione diversa e sto provando a educare la mia bambina così piccola anche seguendo i consigli della dottoressa, che quindi volevo ringraziare. grazie a lei per le bellissime parole, vede? Mi fa molto piacere. Non a caso il dottor Confalonieri si prepara a utilizzare le parole che arrivano giusto al cuore. Noi diciamo così, in realtà arrivano al cervello. Dottoressa Sibillo, ci aiuti? Sì, intanto vi aiuto dicendo subito che il suono della nostra voce, quindi della parola, in fin dei conti è un simbolo, cioè il simbolo dell'idea espressa proprio dal suono. In fin dei conti, se noi ci pensiamo bene, le parole che noi pronunciamo sono nostre ed entrano in vibrazione con noi stessi, ma siamo noi in primi che entriamo in vibrazione con loro, sia fisicamente che psichicamente. Lo definirei quasi il canto incantatore del nostro linguaggio, ma facciamo subito un esempio molto pratico. Se noi parliamo, vogliamo raggiungere uno stato di pace, di benessere, di serenità, questo si andrà a manifestare attorno alla parola simbolo pace. Come ad esempio uno stato di salute si va a cristallizzare attorno alla parola salute, o per esempio un clima piuttosto violento si forma dove? In quel luogo dove le parole che simbolizzano la violenza vengono pronunciate frequentemente. Questo perché? Perché ricordiamoci sempre che l'orecchio, che è il nostro direttore d'orchestra, riceve tutte le informazioni, le elabora e le manda al nostro cervello, che poi attraverso l'immaginazione le proietta nella nostra comunità. Quotidianità. Dottoressa Sibillo, mi scusi se la interrompo, ma in pratica il pensiero positivo, no, racconta un po', no? Ci spinge ad adottare anche la parola per convincerci, per stare bene, ad esempio, no? Guardarsi, è più o meno la stessa cosa. Esattamente questo, cioè quando noi per esempio diciamo avrò fortuna, pare che tutto succeda a livello molto sottile della nostra materia, come se noi facessimo quasi un patto con la fortuna stessa, ma bisogna fare anche attenzione perché la stessa energia noi la produciamo anche in senso negativo e i risultati a volte sono molto più evidenti, perché in questi casi la parola viene pronunciata senza pensare, senza fare tanti sforzi. E oggi che dopo tanti anni che si sono studiate, si sono fatte ricerche per dare delle spiegazioni scientifiche, mediche, al suono quale importante elemento per riequilibrare le alterazioni del nostro stato di salute, non dovremmo poi alla fine stupirci se il medico alla fine di una ricetta medica scrive in questo modo: l'assunzione di questo farmaco deve essere accompagnata dalla vibrazione psicoacustica che si genera pronunciando la frase "io mi sento perfettamente bene, io sono in salute", da ripetersi, non so, 3 volte al giorno prima o dopo i pasti. Questo sarebbe carino, no? È interessante. Molto. Sì, penso che lo farò anch'io. Il dottor Confalonieri come medico vuole intervenire? Più che sì, come medico, come allenatore in questo caso, perché devo dire che questo utilizzo della parola come rinforzo su quella che poi è la sfera emotiva nell'affrontare determinate situazioni, gli atleti lo fanno da tempo, quindi noi ripetiamo determinate frasi, determinate cose agli atleti prima della competizione, penso, senza saperlo, proprio con questo scopo. Dottoressa Sibillo, quanti contributi ci dà oggi il dottor Confalonieri? E io vorrei che ce ne regalasse ancora uno lei, ripetendoci, è intuitivo, no? Così scoprire le frasi che ci fanno stare bene, poi ciascuno di noi può con un po' di attenzione scoprire le sue. Ma per concludere questa nostra breve intervista, che è partita dalla parola per andare a scoprire tutti gli strani meccanismi che una parola genera in noi, quale consiglio, quale esercizio possiamo dare ai nostri ascoltatori? Ah, io ne consiglio due, uno velocissimo, due, che è quello dell'immaginazione. Sì. Allora, se noi immaginiamo di essere rilassati, io vi assicuro che i muscoli si rilasseranno e le nostre tensioni diminuiranno. Ma se noi ci imponiamo e vogliamo per forza essere rilassati, state tranquilli che diventerete sempre più tesi. Il secondo esercizio, che è molto bello e che prende spunto da grandi studi fatti sulla casualità, sul manifestarsi, eccetera, del mondo, proviamo, sì, a dire la frase "io sono". I nostri pensieri in questo momento sono in ascolto, perché quando noi pronunciamo "io sono" è come se ci portassimo a realizzarci muovendo delle forze che possono essere, attenzione però, di insuccesso o di felicità, e quindi affinché nella vita si manifesti solo il bene e il nostro ovviamente benessere, facciamo attenzione che ogni nostra frase che inizia con le due parole "io sono" sia diretta verso obiettivi positivi. E come diceva un grande musicista, e qui voglio riportare questa frase con tutto il cuore, è questa: le persone che raggiungeranno la grande armonia che verrà data dalla felicità arriveranno a suonare la musica della propria anima sull'arpa del proprio linguaggio. Dottoressa Sibilla, dopo questa citazione io rimango senza parole, però ho ancora le parole per salutarla e ringraziarla. Alla prossima, dottoressa. Grazie a tutti voi. Buona grazie. Giornata e grazie. Grazie. Pronto soccorso. E noi adesso parliamo poco, muoviamoci di più, dottor Confalonieri. È arrivato il momento di occuparci della nostra forma fisica. Abbiamo in studio con noi anche Silvia Senati, che quindi ci aiuterà a così trovare, no, le strade per avere un fisico più armonico. Gli uomini lo vogliono scolpito, noi donne lo vogliamo limato, modellato nei nostri punti critici, ma i chili lì non vanno mai giù. Allora, poi ci occuperemo naturalmente di Mario, ma intanto per la nostra ascoltatrice e per tutte le donne che si identificano con Beatrice, abbiamo raggiunto una bellezza 5 stelle, Miss Italia 2007 Silvia Battisti, che ci dà i suoi preziosi consigli. Sentiamo. Allora, innanzitutto voglio dire a tutte le ragazze di fare tanto sport, perché lo sport aiuta non solo fisicamente ma anche mentalmente. Io usavo questo sport, la pallavolo, proprio per il fatto che riuscivo a sfogarmi, a rimanere in linea, stare bene con me stessa, e poi ovviamente anche per restare sempre longilinea ho dovuto sempre comunque stare attenta a quello che si mangia, non mangiare le cose sbagliate, ma insomma le cose più giuste. Mi piace tantissimo andare in palestra perché intanto è un punto di incontro con gli amici, poi insomma in palestra per me è quasi una famiglia, mi diverto, mi sfogo, diventa praticamente come una casa. Ogni corso ha una sua meta da raggiungere, ad esempio uno per tonificare, un altro per dimagrire, insomma provare un po' tutti, magari trovare quello più giusto per il proprio fisico. Un in bocca al lupo grandissimo a tutte le ascoltatrici che faranno questo tipo di percorso. Che dite? Avete qualcosa da aggiungere? Silvia Senati. Ma io aggiungerei di non focalizzarsi soltanto sulla scelta di un solo corso, ma di variare, quindi scegliere da un misto tra corsi di attività dinamica cardiovascolare ad attività di tonificazione. Quindi per chi sceglie proprio il corso guidato dall'istruttore, fare alternare giorni con lezioni di aerobica o di step o lezioni anche di ballo, sì, visto che oramai fanno parte dei corsi di aerobica, perché no? Ad altri corsi invece di ginnastica, gym tonic, fitball, quindi corsi utilizzando anche attrezzi particolari, gag, come si diceva prima. La gag la tirate sempre fuori. Beh, la gag è il più richiesto, queste gambe con addominali e glutei, insomma, sono i punti critici. Funziona davvero dopo tutta quella fatica che ci fanno fare? Diciamo che ci si concentra molto su quelle zone e la sua efficacia, se fatto bene, ce l'ha. Se fatto bene. Dottor Confalonieri, lei fa gag? No, assolutamente no. Cosa aggiungere? Beh, qui c'è un'esperienza che è abbastanza interessante. Partiamo da uno sport di squadra molto diffuso a livello femminile come la pallavolo, come scoperta del piacere dell'esercizio fisico e dell'esercizio fisico condiviso, per arrivare alla palestra, e c'è trapela una componente psicologica estremamente interessante e che caratterizza appunto questa scelta, cioè il fatto di trovare poi in palestra un ambiente che ha una funzione di rinforzo positivo anche a livello psicologico. Mi sembra che Miss Italia parlasse della palestra come di una famiglia. Poi se in palestra poi si diventa così, andiamo tutti in palestra. Ecco, forse non dovremmo porci tutti quell'obiettivo, ma però in effetti noi assistiamo a questo, cioè molti magari arrivano in palestra per la prima volta adesso con l'obiettivo estate, con l'obiettivo di piacersi un po' di più in spiaggia nel mese di agosto, poi scoprono una dimensione che invece va al di là degli obiettivi estetici o degli obiettivi così salutistici, ma una dimensione proprio così più di situazioni vissute insieme, e continuano a venire per questo motivo. E direi che questo è emerso abbastanza chiaramente anche dalla testimonianza che abbiamo ascoltato. In palestra, nelle palestre dove c'è a disposizione una piscina, e sono abbastanza ormai diffuse, si può fare anche esercizio in acqua. Allora, ne parleremo nel corso della nostra trasmissione in modo dettagliato, perché adesso anche l'acqua è in vita. Ma l'acqua fa davvero miracoli? È vero che si fa meno fatica e che modella? Silvia. Allora, dire che si fa meno fatica oramai è riduttivo, perché in acqua si può fare tantissima fatica, perché oramai in acqua si fanno tantissime tipologie di attività. Lei è un po' sadica, è perché ci fa fare questo sì, gag. Molto. Anche in acqua ci vuole far fatica. Si fa anche fatica. Sì. Diciamo che il bello dell'acqua è che abbina sempre un grande massaggio, quindi questo effetto modellante è molto più visibile nell'immediato. Dottor Confalonieri, da un punto di vista medico, quando l'esercizio in acqua è indicato e se ci sono casi in cui, nonostante quello che si creda, va evitato? Beh, indubbiamente l'esercizio in acqua è indicato per tutte quelle situazioni in cui abbiamo delle problematiche a livello articolare o a livello osteomuscolare in genere, perché evita sappiamo, il sovraccarico. Bravissima, mamma si evita mia, il sovraccarico, naturalmente distinguendo queste situazioni in rapporto all'altezza dell'acqua, perché è un po' riduttivo dire che l'acqua fa bene comunque, perché se l'acqua è bassa il sovraccarico è relativamente certo. ridotto, soprattutto quello a livello della schiena. È sicuramente ridotto a livello delle gambe, ma non lo è a livello della schiena. Bisogna avere molte precauzioni rispetto all'esercizio fisico in acqua per tutte le problematiche di tipo cardiovascolare e in particolare problematiche legate alla pressione arteriosa, perché comunque l'immersione del corpo nell'acqua rappresenta uno stress significativo, perché determina una ridistribuzione del nostro sangue con un sovraccarico acuto sia in entrata che in uscita, perché sì. si ridistribuisce in un senso o nell'altro il sangue, con un sovraccarico acuto per l'apparato cardiaco e cardiovascolare, e quindi coloro che hanno problematiche di questo tipo dovrebbero affrontare l'acqua con una certa prudenza. Ci siete? Allora io vi voglio pronti e scattanti, intanto tenete i muscoli caldi, andiamo a sentire le notizie che arrivano dal mondo della medicina e della ricerca, commentate oggi per noi dal professor Giuseppe Remuzzi, che è coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. GR Salute. Guardare la TV non porta buon sonno. Una ragione per cui si dorme poco è l'abitudine a rimanere alzati fino a tardi, magari per guardare la televisione. Questo non è solo un luogo comune, è quello che succede realmente, come documenta uno studio dell'Università della Pennsylvania. Intervistando più di 20.000 persone di età maggiore di 15 anni, i ricercatori hanno rilevato che più del 50% degli americani guarda la TV prima di andare a dormire. Questa abitudine induce a fare tardi, per cui il sonno si riduce a meno di 7-8 ore, il tempo che rappresenta, secondo molti esperti, la durata ideale del sonno per prevenire i rischi per la salute. Aumento di peso in gravidanza, nuove linee guida americane fanno finalmente chiarezza. Ecco le raccomandazioni dell'Istituto di Medicina. Donne sane, di peso normale, definito come un indice di massa corporea tra 18 e 5 e 25. L'aumento raccomandato in gravidanza è tra 11 e 16 kg di peso. Donne sottopeso, vuol dire indice di massa corporea inferiore a 18,5. L'aumento ideale è tra i 12 e i 18 kg di peso. Donne sovrappeso, indice di massa corporea tra 25 e 30. Da 7 a 11 kg di peso dovrebbero aumentare, non di più. Donne decisamente obese più di 30, indice di massa corporea da 5 a 10 kg soltanto. Perché è così importante fare attenzione all'incremento del peso in gravidanza? Se si aumenta troppo c'è il rischio di dover partorire con il taglio cesareo e poi è più difficile eliminare i chili di troppo dopo il parto. È più facile che i bambini nascano immaturi, condizione che comporta diversi problemi per la salute futura. Infine, i bambini nati da donne obese che aumentano molto di peso in gravidanza hanno più depositi di grasso e questo favorisce più avanti nella vita lo sviluppo di malattie del cuore e il diabete. E adesso noi torniamo in acqua. Silvia Senati, eravamo a mollo, abbiamo capito che l'altezza dell'acqua, si dice profondità, dottor Confalonieri, uguale, fa la differenza e che in acqua si possono fare tante cose. Lei ci ha detto, ahimè, che si può anche fare fatica. Si può anche fare fatica. Anche però. Anche, certo, non soltanto. Parlare di acqua oggi non si può più soltanto parlare di ginnastica in acqua, perché oramai come in palestra ci sono corsi diversificati per tipologia. Anche in piscina possiamo fare dall'acqua aerobica al condizionamento muscolare, alla tonificazione con utilizzo di attrezzi e addirittura oggi come oggi anche di attrezzi di cardio e fitness in acqua. Quindi possiamo trovare delle lezioni a circuito, lezioni di attività alternata o intervallata, lezioni di tonificazione, lezioni di acqua gag per ritornare al nostro gambe, addominali e glutei, che comunque sono i corsi sempre più gettonati anche in piscina. Attività in acqua alta, quindi profonda, e attività in acqua media. Perciò anche la scelta in piscina è veramente per tutti i gusti, proprio si può scegliere l'attività come un abito su misura, anche in piscina, per chi vuole consumare di più con un'attività più dinamica, per chi vuole utilizzare un carico supplementare con l'attrezzo da piscina, quindi anche la piscina è non soltanto per le donne, ma anche per gli uomini. Anche per gli anche uomini. Per gli uomini. Dottor Confalonieri, cosa voleva aggiungere? Sì, volevo aggiungere che addirittura in questo parallelismo che faceva Silvia Senati tra palestra e piscina, attualmente si è ancora più accentuato perché esistono proprio iniziative specifiche di palestra in acqua, cioè ci sono realtà nella quale sono state ricostruite le palestre con tutte le varie attrezzature e quindi la possibilità di fare dei circuiti in cui si alternano esercizi per l'allenamento del sistema cardiovascolare, esercizi per la tonificazione delle gambe, esercizi per la tonificazione delle braccia. Si alternano appunto in circuito, tutto fatto in acqua, mediamente con un'acqua che ha un'altezza intorno al 1,20 m, al 1,30 m, che ci consente una grande variabilità di lavoro e di attività, e quindi davvero c'è la possibilità di unire l'efficacia dell'allenamento in palestra con tutte quelle situazioni favorenti tipiche dell'acqua, prima fra tutte appunto l'assenza della forza di gravità e quindi di sovraccarico. Un'offerta talmente ampia da generare quasi un po' di confusione, di paura. Chi ci aiuta a scegliere questi programmi, questo, quello che fa bene per noi, che fa il caso nostro? Anche perché quando voi parlate di integrare, no, il lavoro magari in palestra, diciamo a secco, con quello della palestra a bagno, diventa una cosa un po' da tecnici. Io ad esempio non saprei come muovermi, ma penso come me anche qualcun altro, se non proprio quelli proprio esperti. Beh, diciamo che i nostri ascoltatori devono innanzitutto scegliere un centro nel quale esistano dei coordinatori che siano in grado di indicarci qual è la scelta migliore inizialmente. L'ideale sarebbe arrivare in un centro dove, se necessario, facciamo una visita, una valutazione specifica, sì, e dove comunque c'è un coordinatore che in base alle nostre esigenze, alla nostra disponibilità di tempo, sceglie insieme a noi un l'attività percorso più adatta. E in seconda battuta direi che almeno inizialmente, se ci avviciniamo all'esercizio, è utile partire con un'attività di base, quindi poco complessa, semplice e con effetti più possibile generici. Dopodiché, diciamo le sue tre parole magiche: gradualità, individualità e continuità. Ecco. Dopodiché si può proprio gradualmente si può arrivare a fare corsi sempre più difficili, sempre più sofisticati, sempre più nuovi, che ci garantiscono il mantenimento della motivazione e quindi la continuità. Io sono rimasta ancora nell'acqua, no? Con l'idea dell'acqua che è qualcosa di dolce, e va bene, faremo anche fatica in acqua, ma vedo che in questo periodo si sta diffondendo la richiesta di corsi con un approccio più olistico, non so se è giusto questo termine, dove la ricerca della forza e dell'elasticità vengono raggiunti in modo, voi lo definireste da tecnici, meno dinamico. Meno dinamico, giusto? Vero? Sì, esatto. Ecco. Mi ha tolto, oggi abbiamo parlato anche di parole che arrivano al cuore, mi ha tolto la parola. Silvia Senati, che ci dice? Pilates, alternativa allo total yoga, total body yoga, tutte queste attività dove c'è proprio un entrare in contatto col proprio corpo, una presa di coscienza e un sentirsi un tutt'uno, tra unire proprio psiche e corpo. E queste attività sono meno dinamiche, è vero, si sviluppano soprattutto con movimenti molto fluidi, molto morbidi, tant'è vero che una delle principali è proprio una forma anche di fitness, tai chi fitness, anche perché sono associate alla musica. E attività che si sviluppano anche in genere a terra, dove si entra a contatto soprattutto con quella che è la struttura del corpo, quindi lo sviluppo della forza attraverso la costruzione, la presa di coscienza dell'impalcatura di questi muscoli profondi che a volte dimentichiamo perché magari guardandoci allo specchio sono quelli meno evidenti. Certo. Una ricerca anche di arrivare a fare attività fisica in modo meno frenetico, soprattutto dopo giornate di lavoro anche abbastanza stressanti, la voglia proprio di andare a casa di una stanchi, ma non stanchi fisicamente, mentalmente, sì, stanchi il giusto, cioè perché si è fatto esercizio fisico ma senza essere affaticati da non potersi più alzare da un materassino dopo lo stretching finale. Dottor Confalonieri, e il nostro Mario non è che ce ne siamo dimenticati, tra l'altro proprio ha scritto espressamente voglio il dottor Confalonieri, una mail proprio per lei. Sì, sì, lui si rivolgeva proprio a me e vorrei dargli un consiglio un pochino controcorrente in questo caso. Prima parlavamo di corsi anche adatti agli uomini. Mario cerca un'intensità elevata, è un corso fortemente motivante in quanto è già sportivo. Ecco, tutti quei corsi, per esempio, di fitbox, di kickboxing o quant'altro, in cui si unisce la musica, la ginnastica e le tecniche tipiche degli sport di combattimento, quindi non soltanto la box, potrebbero essere l'ideale per lui, perché rappresentano un allenamento cardiovascolare molto intenso, una tonificazione efficace, e gli consentono anche di scaricare quella, in modo positivo, quell'aggressività che mi sembra lo contraddistingua caratterialmente. Quindi lo indirizziamo verso questi tipi di corsi. Sicuramente sì. Un piccolo problema è un effetto collaterale del movimento: aumenta l'appetito. Allora lei, dottor Confalonieri, ci dice che in estate la dieta si alleggerisce, più frutta, più verdura, anche meno appetito, però per un sedentario che improvvisamente si mette a far lavorare i muscoli, insomma, lo sfilatino chiama. Come si fa? Due consigli molto semplici, molto pratici. Il primo: se facciamo l'esercizio fisico per dimagrire, cerchiamo di valutare insieme ai nostri insegnanti quante sono le calorie che consumiamo nella nostra attività. Quindi, se quel giorno sappiamo di consumare effettivamente 750-900 calorie in più, che è la media di un'ora attività in palestra, dovremo o mantenere la dieta che facciamo quando non facciamo attività, o incrementare questa dieta per un numero di calorie minori delle 750-900 che consumiamo, se no non dimagriremo assolutamente, ma non per colpa di uno sport fatto male, per colpa di un'abitudine alimentare sbagliata. Sì. Secondo consiglio: cerchiamo di affrontare l'esercizio fisico con i depositi di zucchero pieni, quindi 3-4 ore prima un pasto ricco in carboidrati complessi, pane, pasta, riso e quant'altro. Crostata. E con una glicemia costante nel momento in cui facciamo l'attività, quindi un piccolo richiamo, per esempio la fetta di crostato un'ora, un'ora e mezza prima. Questo ci consentirà di ottimizzare gli effetti dell'esercizio e di evitare le crisi di fame post attività, e quindi di mangiare meno dopo, e questo ci consentirà quindi anche di dimagrire più facilmente. Anche se si va in acqua? Sì, sì, assolutamente. Anche se sì. Si va in acqua. Allora, io saluto il dottor Franco Confalonieri, lo ringrazio, ma tanto noi ci vediamo ogni venerdì. Silvia Senati, che ci ha accompagnato, ci ha così fatto conoscere tutta questa offerta, tutta dedicata a chi si vuole mantenere in forma e anche stare bene, perché l'esercizio fisico fa aiuta. Se è fatto con continuità. Se fatto con continuità. Ma la corsa per la prova costume. Io vi ringrazio, vi auguro grazie. Un buon fine settimana. Lui ci addormentiamo e passiamo la notte, ma non sempre al risveglio ci alziamo soddisfatte. Non stiamo parlando del nostro compagno o compagna che sia, almeno per questa volta, ma del nostro cuscino. Lo tiriamo spesso in ballo per lamentarcene, sicuramente qualche dubbio su di lui ce lo abbiamo, o ne abbiamo avuto tutti. Sarà quello giusto per me? In linea con noi abbiamo il professor Palombini, che è reumatologo e docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, ospedale Sant'Andrea. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, la scelta del cuscino è personale o invece ci sono delle regole, delle indicazioni che possono aiutarci a trovare quello giusto per noi? Diciamo l'uno e l'altro, nel senso che il cuscino è sicuramente personale, perché non tutti siamo uguali, chiaramente nessuno è uguale all'altro, quindi avremo delle spalle più grandi, più piccole, dei colli più grossi, delle teste che hanno sono sporgenti in avanti, che sono più il collo più verticalizzato, quindi una situazione diciamo strutturale, corporea diversa da persona a persona, quindi bisogna fare un adattamento. Certo che ci sono un pochino delle regole fondamentali per dormire bene. Io credo che la regola più importante da considerare è che per dormire tranquilli bisogna, questo va detto, il mento deve essere sempre leggermente rivolto verso lo sterno, mai il mento rivolto verso il soffitto. Questo eccita il sistema nervoso, cambia proprio la respirazione e può creare dei problemi di insonnia più spesso piuttosto seri, piuttosto antipatici. Quindi noi appoggiamo la testa sul cuscino e dobbiamo vedere se il mento va verso lo sterno. Allora, la posizione migliore per l'addormentamento, io lo consiglio a tutti i nostri amici, è quello di mettersi sul fianco, di solito sul fianco destro,

anche di cambiare strada. Dalla strada al fidanzato, al lavoro, di qualunque al cosa supermercato. Si tratti. Piccole, grandi e sempre... Quando decidiamo che facciamo qualcosa per noi, è veramente un giorno da segnare sul calendario e da ricordare. Dobbiamo continuamente mantenere l'attenzione su questa intenzione positiva che c'è dentro di noi. Infatti è un momento molto forte, ma anche di grande fragilità, perché è molto facile ritornare negli automatismi precedenti. Quindi la cosa migliore è cominciare a pensare che facciamo qualcosa, un programma che possiamo rispettare. Perché se ci chiediamo troppo rischiamo di non avere la forza di continuare, di stancarci troppo presto. Ma se siamo troppo indulgenti rischiamo di arenarci. Per trovare la via di mezzo? Allora, l'importante è che dentro di noi rimanga chiara la buona intenzione di fare qualcosa di positivo per noi, senza criticarci troppo, accettando i nostri limiti, perché potremmo anche ricadere nella vecchia abitudine, ma se ci muoviamo con fiducia saremo anche capaci di riprendere, di non lasciare andare tutto. Noi dobbiamo quindi mettere in conto anche qualche piccolo fallimento. Certo. Un po' come quando facciamo le strade, certo. un percorso, oppure saliamo le scale, certo. Ogni tanto viene un po' di fiatone. Siamo delle macchine. Ecco, per cui il pianerottolino serve anche per prendere fiato. Allora, in questo senso dicevo, se ci chiediamo troppo, non siamo molto gentili dentro di noi. La gentilezza di cui io parlo è proprio quella più vicina alla fiducia di noi stessi. Allora, noi ci proviamo. Intanto, dottoressa Schoss, lei è sempre a portata, almeno di telefono, se non di studio, quindi ai nostri ascoltatori che si trovano in un momento difficile, in un momento di cambiamento e vogliono un aiutino in più, scriveteci esserebenessere@radio24.it. Noi chiameremo prontamente la dottoressa Schoss per farci dare quella spintina per andare avanti. Dottoressa, intanto la saluto e la ringrazio. Buona giornata e buon cambiamento anche a lei. E buona Grazie. Fiducia in sé. E buona fiducia a tutti. Noi ci sentiamo domani, per questa casa non è un albergo, quindi l'appuntamento è per domani a mezzogiorno. Vi aspetto. Buona giornata da Nicoletta Carbone.